Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Molte persone credono che Google sia solo un motore di ricerca e Facebook solo un posto per vedere che cosa fanno gli amici e le loro foto. E non capiscono che le società competono per la loro attenzione. Allora, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube. Il modello imprenditoriale di società come queste è tenere le persone incollate allo schermo. Cerchiamo di capire come ottenere la maggiore attenzione possibile dalle persone. Quanto tempo possiamo trattenerti? Quanto tempo possiamo fare in modo che tu ci conceda? Se si pensa al modo in cui lavorano queste aziende, tutto ha senso. In internet ci sono tutti questi servizi che noi crediamo gratis, ma non lo sono. Vengono pagati dagli inserzionisti. Siamo noi il prodotto, la nostra attenzione è il prodotto che viene venduto. È il graduale e impercettibile cambiamento del tuo comportamento e della tua percezione ad essere il prodotto. È questo il prodotto. È l'unico prodotto possibile. Non c'è nient'altro in ballo che possa essere definito il prodotto. È l'unica cosa da cui possono trarre profitto. Il brano che avete ascoltato e ne sentirete altri nel corso della trasmissione è tratto dal film documentario The Social Dilemma, il film di Jeff Orlowski, che è trasmesso in questi giorni dalla piattaforma Netflix e di cui sta molto parlando. Di cosa parla questo film? Di cosa tratta? Beh, sono le testimonianze di alcuni fuoriusciti, alcuni grandi cervelli della New Economy, hanno lavorato in Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, hanno elaborato algoritmi che hanno fatto sì che questo sistema diventasse la nostra coscienza collettiva, poi a un certo punto si sono pentiti. Hanno pensato, tutti assieme, e tutti assieme ne parlano, che il sistema sta andando troppo avanti. Quindi questo è un film che ci mette in guardia sul fatto che noi ormai viviamo in una bolla, una nostra bolla individuale, che noi pensiamo che sia altro che il riflesso del nostro mondo di relazioni, della nostra maniera di rapportarci con le offerte quotidiane della nostra vita sociale, la nostra capacità di acquisto, della nostra possibilità di spaziare e avere informazioni dal mondo. Loro in sintesi ci dicono che è un sistema perfetto, che mira al profitto naturalmente, che entra così in profondità in quella parte del nostro cervello che noi non controlliamo. Uno di loro fa l'esempio del prestigiatore, fa apparire e scomparire una monetina e dice: guarda, io semplicemente non sono un mago, semplicemente attingo, vado a toccare una parte del tuo cervello che tu non controlli e tu vedi scomparire questa monetina e la vedi riapparire. Alla stessa maniera ogni mattina tu appena ti svegli prendi il tuo telefono e guardi le notifiche. Quelle notifiche sono notifiche fatte apposta per te, per tenerti accalappiato, legato a questo mondo, per giocare sulla tua vita emotiva. Perché? Perché tu è indispensabile che dia loro ogni particolare minimo della tua vita. Perché questo? Perché loro devono prevedere quali saranno i tuoi consumi, i tuoi comportamenti. Per prevederlo ci sono degli algoritmi talmente perfetti, talmente sofisticati, che ti danno continuamente degli stimoli. A seconda delle reazioni di questi stimoli, loro sapranno domani che vestito indosserai, cosa penserai, chi vedrai, dove andrai, cosa farai. Sembra paradossale, sembra una teoria complottistica, sembra qualcosa che assomiglia alla terra piatta ai rettiliani, però ricordate che chi vi parla è una persona che voi sentite al microfono da almeno 15 anni, almeno in questa radio, a livello nazionale da almeno 40 anni, che è sempre stato appassionato nel sondare, scandagliare, percorrere per primo le strade che uscivano dalla nostra dimensione tradizionale, spazio-temporale. Io 14 anni fa lanciai Second Life con gli ascoltatori di Radio 24, ricordate? Facevamo trasmissioni notturne in cui ci collegavamo con gli avatar di Second Life, sembrava una follia. Poi ho scritto un libro e poi mi sono stufato. Poi abbiamo fatto il gruppo Facebook dei 100, ricordate? Le magliette rosse della passione, ma sarà stato 14 anni fa circa, facevamo un raduno e la gente, i miei colleghi mi dicevano: ma cos'è sto Facebook di cui ci parli te? Ma è una roba da ragazzine, una cosa per scambiarsi la musica, ma figurati. Beh, oggi tutti sanno esattamente cosa sia Facebook, quindi se c'è una persona vaccinata da ogni tentazione di ricerca di un punto di ripristino nel passato, di luddismo di maniera, di disprezzo delle tecnologie, di vilipendio del mondo moderno, ci allontana la nostra dimensione umana, sono io. Però a me questo documentario mi ha fatto riflettere. Voglio che le persone capiscano che tutto quello che fanno online viene osservato, viene tracciato, viene valutato. Ogni tua azione viene attentamente monitorata e registrata. Quale immagine ti sei fermato ad osservare e per quanto tempo? Oh sì, anche per quanto tempo l'hai guardata. Sanno quando le persone sono sole, quando le persone sono depresse, quando stanno cercando le foto dei loro ex fidanzati. Sanno che cosa fai a notte fonda, sanno tutto. Se sei introverso o estroverso, o di che genere di nevrosi soffri, che personalità hai. Hanno più informazioni su di noi di quanto si sia mai creduto possibile. È una cosa senza precedenti. Quindi tutti questi dati che rilasciamo in continuazione vengono inseriti in questi sistemi che non prevedono alcuna supervisione umana e stanno facendo previsioni sempre più accurate su quello che faremo e su chi siamo. 800240024, oggi voglio confrontarmi con voi su questo tema. Tutti ormai siamo collegati a una rete fitta di social network, chi più chi meno, a seconda dell'età, della propria equazione esistenziale, del mondo in cui si lavora, ci si relaziona, comunque tutti sappiamo di cosa si parla. È qualcosa che ha creato comunque un ambiente apparentemente comune di riferimenti. Noi siamo convinti che tutti vediamo, abbiamo le stesse notizie, vediamo le stesse cose, abbiamo la stessa narrazione del quotidiano perché tutti siamo collegati ai social network. Quello che ci fa capire questo film è che no, ognuno di noi è creato un universo individuale, un universo in cui perfettamente tu ti trovi a tuo agio e tu in cui perfettamente esprimi e racconti te stesso. Mi fa pensare un mio amico libertino, fortunatamente più giovane, con una vita relazionale assai più intensa della mia, dice: ho notato che le ultime 4-5 persone che vedo che guardano i miei post o mi mettono un like, guardano le mie foto su Instagram, sono tutte persone con cui ho avuto una storia, una relazione, un fugace episodio di sesso, che comunque con le quali hanno rappresentato delle tappe comunque nella mia vita recente, negli ultimi anni. Possibile io delle migliaia di persone che mi seguono, che ho come amici, sono sempre queste 4-5 quelle che vedo in primo piano. Evidentemente alla lettura di questo film potrei rispondere quello che non potevo, sapevo rispondere soltanto qualche mese fa. Dico: beh, certo, perché queste sono le persone che ti tengono emotivamente legato alla rete, perché sono persone con cui tu hai avuto dei ricordi intensi, profondi, emotivi, che affondano oltre quella che tu hai la tua esperienza di ogni giorno, persone con cui hai condiviso qualcosa, quindi sono quelle che ti ricordano di più la tua vita. Questa è una delle tante domande che mi farò assieme a Walter Quattrociocchi. Buongiorno Walter Quattrociocchi. Buongiorno. Allora, Walter Quattrociocchi l'abbiamo già sentito altre volte ospite, è un professore di informatica, direttore del laboratorio di Data Science Complexity dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha eseguito il compitino di guardare il film prima di parlarci in trasmissione, Quattrociocchi? Senz'altro, sì, è stata un'esperienza molto, molto interessante, diciamo. Ecco. Io penso che lei si muova su un terreno che sia alieno da ogni tentazione luddistica o di disprezzo comunque di ciò che rappresenta la tecnologia nel nostro evolversi digitale. Ma non l'ha fatta riflettere anche lei un po' questo film rispetto a tutte le riflessioni che possiamo aver fatto nei mesi passati, negli anni passati? Sì, sì, ma cioè nel senso è stato, da un punto di vista è stato molto interessante, cioè lo dico, l'iniziativa per portare in qualche modo a discutere di questi temi. Ho notato però una certa vena sensazionalistica che è molto simile a quella che loro criticano, no? Cioè nel senso, alla fine tutto il business model attuale, dal giornalismo alle vendite online, si gioca sull'attenzione dell'utente, quindi in qualche modo non è che c'è qualcuno di esterno a questo sistema che può dire che non usa questi meccanismi. Il punto è che hanno, diciamo, alterato, cioè forzato alcune diciamo congetture scientifiche per avallare la loro tesi, e quindi alla fine è stato molto divertente quando criticano le teorie del complotto, quando nella costruzione loro narrativa in qualche modo c'è un po' tutto l'aspetto della teoria del complotto, cioè questi social media che sono onnipotenti, possono tutto e stanno lì per in qualche modo farci danno. Diciamo che sono degli inserti di fiction che un pochino fanno anche sorridere. L'algoritmo è rappresentato come una persona triplicata in tre entità che ogni istante ci muove, un po' come quel film, mi sembra della Pixar, in cui la coscienza di una ragazzina era fra la rabbia, l'amore, la tristezza e via dicendo, rappresentata come dei personaggi. Era un po' esagerato. Ci sono anche lì i guru, c'è un signore un po' attempato che ancora con i capelli rasta che gli arrivano fino al sedere, che dice spegnete tutto, staccate tutto. Il Corriere della Sera lo definisce un documentario pasoliniano, nel senso che c'è una tesi molto forte di riscatto e di rivoluzione. Questo è il lato più debole, ma sugli aspetti, diciamo, di lettura reale tecnica del potere d'azione sulla nostra coscienza del sistema integrato dei social network, cosa ne pensa? Come dicevo prima, alcune cose sono molto forzate nella costruzione, nel senso questo è un argomento di ricerca molto sentito e quindi spesso c'è pure ingerenza politica nell'avallare alcuni risultati piuttosto che altri. Per esempio è epocale nel momento in cui dicono che le fake news si diffondono 6 volte più velocemente delle informazioni reali, diciamo che questo è stato fortemente smentito e diciamo che sappiamo che non è vero, è più una questione narrativa che di fake verso informazioni reali. Il punto è proprio pure quell'assunzione sul fatto che questi social media causano maggiore depressione negli utenti, cioè sono tutte cose che non sono così solide dal punto di vista scientifico, però tornano utili per avallare un discorso sensazionalistico. Questo non toglie che effettivamente il problema c'è in qualche modo, ma da un punto di vista, diciamo, di quanto è complesso e quanto articolato, cioè, ci sarebbe stato molto di più da fare, soprattutto in termini di divulgazione, di quanto effettivamente il problema è grosso, perché l'implicazione della manipolazione ok, ma quanto questa manipolazione funzioni, quanto sia effettiva, non è ancora stato capito, non significa che non è vero, cioè su quale leva agisce, se per esempio lì si dà tutta la colpa agli algoritmi. Una delle ipotesi che è in corso d'opera è quanto invece questi social semplicemente avallino alcune tendenze nostre innate, alcuni comportamenti proprio nostri, piuttosto che cambiare il nostro modo di pensare, no? Quindi quanto rendono più facile alcuni tipi di processi che sono quelli della segregazione, della polarizzazione, piuttosto che avallarli. Quindi c'è un po' una narrativa che in qualche modo perde l'efficacia, perché poi quando portata sul piatto scientifico trova delle carenze molto forti, ecco, insomma. Ma anche, diciamo, la schiera dei pentiti, dei transfughi, intervistati tutti come se uscissero da un incubo, tutti che confessano aver fatto parte di un grande diabolico piano, finalmente la loro catarsi è raccontarcelo. È, diciamo, una nota romanzesca che può affascinare, ma abbastanza trattata e raccontata in tutte le narrazioni complottistiche del passato. Non le sembra un po' strano che improvvisamente questo gruppo di ex elaboratori e costruttori di algoritmi tutti insieme si pentano e facciano questa sorta di rivoluzione, dire è tutto un sistema terribile che ci schiaccia? Non voglio minimizzare, però sono domande che mi pongo con chi il problema lo studia seriamente. Secondo me queste sono le domande che mi sono posto anch'io, nel senso, cioè, parlano di teorie complottiste formulando una teoria complottista. Secondo me un po' la spinta a naso viene dal fatto che c'è, partita dall'Accademia statunitense, una forte tendenza a trovare un capro espiatorio per la presenza di Trump al governo, no? Un po' erano le fake news, una volta i troll russi, poi sono i social media, anche perché loro, cioè Tristan Harris ha pure partecipato ad un'inchiesta del Senato degli Stati Uniti portando questo suo ragionamento. Quindi in qualche modo quell'idea, l'intenzione di suggestionare l'opinione pubblica per rifarci un pochino il pelo, diciamo. Però in questa costruzione, che narrativa che portano, ci sono, cioè, il rischio grosso alla fine di come l'hanno costruita, che diventa qualcosa di così tanto allarmistico, così tanto terroristico, ma basato su informazioni un pochino, diciamo, dire favoleggiate è poco, rischia di creare poi un effetto collaterale che è quello di non rendere più credibile questo tipo di discorsi, quando invece il discorso andrebbe fatto e è importante, però andrebbe fatto su un altro piano. È la soluzione finale che danno loro, che dicono a un certo punto spegnete tutte le notifiche, disinstallate tutte le app, che è un po' che andava di moda, ma da una decina d'anni che va di moda, sotto Quaresima c'è sempre qualche buon parroco di paese che dice facciamo il fioretto, stacchiamoci a seconda del tempo, non guardiamo più l'email, togliamoci da Facebook, quest'anno diranno togliamoci da TikTok, trovano una forma di peccato e quindi di espiazione nell'allontanarsi dalla tentazione. Ma le sembra concepibile che ormai al livello siamo arrivati di interazione digitale, di coscienza digitale, oggi spegnere risolverebbe il problema? Ma non credo che sia neanche lontanamente quello, neanche lontanamente plausibile una soluzione di quel tipo, cioè moderare sicuramente, ma arrivare a un negazionismo totale rispetto all'impatto tecnologico mi sembra abbastanza grottesco, cioè valutiamo soltanto quello che è stato possibile fare durante la didattica a distanza con le piattaforme, Google ha dato un grosso contributo alla didattica a distanza, c'è stata tutta una serie di iniziative di Facebook per mettere a disposizione i dati, insomma c'è una collaborazione, fanno parte di un mondo, hanno cambiato le dinamiche, però questo richiamo ai tempi andati bucolici in cui tutto funzionava bene perché non eravamo connessi lascia un po' il tempo che trova, e poi ripeto, la narrazione è molto sessantottina, filo dei fiori come la raccontano, c'è una costruzione narrativa per cui c'è il male che è onnipotente e l'unico modo per combattere è ritornare alla purezza, insomma un po' molto bucolica come formulazione. Il punto è che proprio pure nella formulazione, cioè, ma ripeto, per me è lodevole il fatto che si parli di certi argomenti, perché effettivamente la consapevolezza di come alcuni meccanismi si innescano, di come andiamo avanti, come processiamo le informazioni online, sono fondamentali e dirimenti, hanno cambiato proprio completamente il modo di accedere alle informazioni, di formarsi l'opinione, andrebbero discussi però in maniera un pochettino meno, diciamo, meno partigiana, ecco, cioè questo atteggiamento così da risolutori del problema con una visione abbastanza fantasiosa alla fine non fa che togliere credibilità. L'espediente è sempre lo stesso, o un pentito, o un documento segreto che viene trovato per caso, o qualcuno che passa diciamo alla linea opposta e diciamo tira fuori tutto quello che è stato costretto a fare, è stato già visto abbastanza nella storia anche degli ultimi secoli. Ci fermiamo solo un istante, stanno arrivando le prime telefonate, 800 24 00 24, vi siete posti anche voi il social dilemma? A tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi, vi presenta Melog. Molti credono che siano i nostri dati ad essere venduti. A Facebook non interessa dar via i nostri dati. Ma cosa ci fanno con quei dati? Costruiscono dei modelli che predicono le nostre azioni. E chi ha il modello migliore vince. Sta scrollando più lentamente. Sta finendo la durata media di utilizzo. Diminuisco le pubblicità. Torna ad amici e famiglia. Dall'altra parte dello schermo è come se avessero una sorta di nostro avatar bambola voodoo. Tutto quello che abbiamo fatto, che abbiamo cliccato, tutti i video che abbiamo guardato, tutti i mi piace, viene tutto registrato per costruire un modello sempre più accurato. Il modello, una volta pronto, può predire che cosa faranno le persone. Posso predire che genere di video guarderai, posso predire che genere di emozioni ti stimolano. Perfetto, ha funzionato. Pronti con un altro video? Benissimo. Metto una pubblicità prima che inizi il video. Questa è la rappresentazione romanzata dell'algoritmo. È un signore triplicato con la stessa faccia, che ha una triplice console di controllo su ognuno di noi. Usa il nostro avatar come se fosse proprio un bambolotto voodoo in cui loro infilano gli spilloni per dare degli stimoli e decidono cosa guardiamo. Cosa guardiamo perché è importante per farci comprare, poi diventare un consumatore attivo, possibile prevedere quelle che sono le nostre tendenze, i nostri desideri. Insomma, la tesi del Social Dilemma, il film di cui stiamo parlando, trasmesso in questi giorni sulla piattaforma Netflix, film di Jeff Orlowski che ha anche vinto numerosi riconoscimenti, che presenta in una maniera apparentemente neutra, ma in realtà molto legata al tema del complotto, il pentimento di una serie di programmatori, dei più grandi colossi dei social network, che dicono che in realtà è tutto un sistema che ci rende gradualmente schiavi, crea dei mondi fittizi individuali in cui ognuno di noi vive e il senso ultimo è il profitto. Ho chiesto agli ascoltatori come la pensassero, sentiamone subito qualcuno velocemente, poi torniamo al nostro ospite. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Sono in linea, chiamo da Firenze. Sì, senta, premetto subito che sono un medico e voglio riportare tutto il discorso dell'elettronica al corpo umano. Noi in pratica siamo dei computer nei quali il nostro algoritmo è già scritto. Noi sappiamo già che avremo un tumore, sappiamo già quanto potremo vivere. Siamo delle macchine già scritte, il tutto sta nel nostro codice del DNA. Che cos'è che ci muove però? Che cos'è che alimenta il nostro microchip? Ciò che alimenta il nostro microchip sono le endorfine, cioè tutta l'umanità si è evoluta solo per le endorfine. Noi cerchiamo il caldo invece che il freddo, cerchiamo il piacere invece che il dolore, noi cerchiamo di avere più accoppiamenti possibili perché il sesso produce endorfine. Chi si droga ha trovato la scorciatoia, perché in una dose ha milioni di endorfine improvvisamente, cioè tutto il nostro meccanismo biochimico è stato impostato per evolversi grazie alle endorfine. Quindi tutto ciò che dovremmo dottore, fare... per dirlo in sintesi, facciamo quello che ci dà gusto, perché fattoci dà gusto vuol dire che è la cosa migliore per noi farlo. Ma diciamo no, siamo programmati, chi ci ha fatto, non so se sia stato là Buddha o non sono un religioso, sono atio, possiamo anche prodotto, siamo fatti diciamo, da soli può anche essere, benissimo, alla fine. Benissimo, è come la stessa mia teoria di atio, però diciamo che ci evolviamo per le endorfine, cioè non ci evolviamo per altro, perché stiamo cercando il piacere per, invece del dolore, quindi per trovare la soluzione ci vorrebbe un guru, un magnato, qualcuno che ci dice che il dolore è migliore del piacere, cioè che non bere lo spritz perché ci fa male. Beh, qualche religione ci ha provato a dire che quindi, in fondo bisogna diciamo il disprezzo del mondano, la mortificazione della carne, la ricerca della morte. Ci sono delle regioni molto pericolose che propagandano questo. Poi posso fare una domanda, dottore? Scusi, una domanda. Prego. È un tema che mi affascia perché sin dai tempi di Second Life trovavo chi mi diceva questa teoria e in questo documentario è espressa. In realtà il sistema dei social media serve a sollecitarci la serotonina perché ci fa star bene, ci crea un senso di piacevolezza e quindi noi rimaniamo avvinghiati a questo sistema perché alla fine che ci arrivi il like ci fa piacere, che ci arrivi il filmato che corrisponde al nostro desiderio ci fa piacere, che ci arrivi l'oggetto, la persona, la cerchia di persone che ci segue, ci manda i like, ci fa piacere. Quindi alla fine hanno ricreato gli algoritmi una sorta di grande demiurgo che lavora, come dice lei, col sistema delle endorfine. Non solo, ma la cosa è molto più ampia. Perché fanno questo? Perché chi ci schiavizza mentalmente in questo senso ha più potere, ha più soldi, ha più profitto. Cioè il fine di tutto è il profitto, perché chi è proprietario di certi media, chi è proprietario di certe major, sicuramente lo fa per profitto, lo sa che fa una cosa che in fondo non è positiva. E però qual è la differenza, dottore, mi scusi, per comprarti lo yacht più bello, per comprarti la differenza, casa dove vuole. Mi spieghi, aspetti dottore, mi spieghi, no, entriamo. Qual è la differenza fra il mio droghiere di quando ero bambino, che metteva tutte le provole belle messe in fila, i prosciutti messi in fila, faceva una sorta di voluttà dell'offerta. Lui usava i suoi sistemi antichi, analogici, di farci assaggiare il provolone e il salamino per farlo vendere. Oggi usano sistemi più raffinati perché lavoriamo sull'ircorporo, ma il sistema è sempre stato lo stesso. Offrire le cornucopie del piacere perché noi in qualche maniera crediamo certo, esattamente quello. È l'evoluzione. Sai? L'uomo di Neanderthal perché non è rimasto nelle caverne a scaldarsi col fuocherello, ma è evoluto verso le stufe in ghisa? Perché? Perché c'è stata l'evoluzione? Perché il piacere è meglio del dolore. Questo è un principio che noi abbiamo scritto nel nostro DNA. Oddio, c'è qualche salto indecifrabile. Lei mi insegnerà, essendo un medico, che quando ci perdemmo qualche milione di anni fa il baculum, che è l'osso penico, è perché siamo diventati monogami. Questo passaggio non l'ho proprio capita, perché in qualche circostanza ci sarebbe anche stato utile. Franco, sentiamo. Franco, ha parlato Mirko. Mirko. Eccomi qua. Vai. Ciao Gianluca, sono Mircaccio. Ah, Mercaccio, dimmi la tua. Ciao caro, ciao. Innanzitutto ti faccio una battuta, che quando guardavo durante il lockdown i vari complottisti che se la pigliavano con Bill Gates, mi chiedevo come mai ce l'avessero tanto con Bill Gates e confessassero l'inconfessabile a Zuckerberg. Cioè, non so, perché mi sembra una contraddizione, visto che uno guarda al complotto di uno, dico perché non guarda anche a quello dell'altro. Perché con c'è una storia, perché Bill Gates è quello che favorisce il 5G, dove c'è il microchip che ci attiva il Covid e ci rende schiavi, chiaro. Invece Zuckerberg è un santo che ci paga la cena per i cavoli suoi, perché è buono. Allora, quindi questa è la prima cosa. Poi sono d'accordo con quello che diceva la persona intervistata, che poi quando si butta sul complotto si rischia di svilire l'argomento, ed è quello che succede sempre, perché poi effettivamente certe volte le teorie complottiste sono proprio asservite a chi quei complotti li sta facendo, proprio perché sviliscono l'argomento e lo buttano in cacciara. Voglio dirti un'ultima cosa, io lo guardo dal punto di vista per esempio della musica e dell'arte, visto che di questo mi occupo. Si parla di regresso dell'ascolto già dai tempi della prima riproduzione meccanica della musica, cioè da quando si sono incisi i primi dischi si parla di regresso dell'utenza e dell'ascolto nel pubblico, no? Ecco, Kandinsky invece diceva che chi era a un livello della piramide spirituale superiore e si rivolgeva dando dei prodotti viziati a chi stava a un livello più basso di questa piramide spirituale, dava confermi quello che ha detto il professor Quattrociocchi, sentiremo fra un istante dopo l'interruzione, ma tu pensa che Platone stesso inorridiva per il fatto che fosse nata la scrittura, morirà il pensiero, non avremo più nulla nella mente perché dovremmo scriverlo. Questo è un vecchio male dell'umanità, temere comunque ogni passo evolutivo consapevole che passa attraverso dei sistemi di riproduzione del reale. Ci fermiamo un istante. So che stai cercando un nuovo aiuto per la tua azienda. Ti segnalo un mio amico, un grande lavoratore. Si chiama Vito. Prendilo, farà un gran bel lavoro. Mercedes-Benz ti raccomanda il nuovo Vito. Grazie a un motore potente ed ecologico, al volante multifunzione, alla radio touch e alla telecamera posteriore, lavorare è più semplice e appagante. È tuo con anticipo zero. 6 mini rate iniziali di 30 euro per poi pagare 290 euro al mese. Tag massimo al 361. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial presso le concessionarie aderenti all'iniziativa. La sua agenda dice che non ha lezione ora, ma non è al telefono. Lo sollecitiamo? Sì, sollecitalo. Il tuo amico Tyler si è iscritto, dagli il benvenuto. Risponde. Ok, ci siamo. Proseguiamo con un post dell'utente 0790442388880. Rebecca. Buona idea. Il GPS indica che è molto vicino a Ben. È pronto per un pop-up. È tempo di aste. Venduto. Alla cera per capelli Deep Fade. 468 offerenti, ben venduto a 3,2 centesimi per impression. Abbiamo creato un mondo in cui la connessione online è diventata basilare, soprattutto per le generazioni più giovani. E tuttavia, in questo mondo, ogni volta che due persone si connettono, l'unico modo per finanziare il tutto è attraverso una terza. 800240024. Ringrazio Pietro Latorre da Milano, da Roma Gloria Guerrera, Fabrizio Intonti, in collegamento dalla Silicon Valley Alessandro Chiappini. Lo potete vedere nel video proprio in questo momento, mentre mi sta mettendo in onda. Ho il telefono in collegamento Walter Quattrociocchi, professore di informatica, direttore del laboratorio di Data Science e Complexity dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, al quale pongo la domanda che mi ha fatto un ascoltatore. Sì, però vi rendete conto che uno degli algoritmi più perfetti e complessi è proprio quello di Netflix, che trasmette questo film, che riesce a condizionarci una volta che ha capito cosa ci interessa, facendoci vedere quello che vuole. Sì, nel senso, chiaramente un po' per quello dicevo un po' era paradossale, no? Nel senso, nel momento in cui si fa una denuncia utilizzando lo stesso mezzo per la diffusione, un po' quello che diceva pure l'ascoltatore, no? Cioè, sono contro Bill Gates, però lo dico a Zuckerberg. Cioè, il business model proprio è cambiato, e se non riusciamo in qualche modo ancora ad accettarlo, cioè la capacità di diffusione concessa a tutti è il vero cambiamento in essere nei nostri processi sociali, come lo fu un po' l'invenzione della stampa a caratteri mobili, in cui si poteva in qualche modo, si rompeva il privilegio dell'elite di interpretare la scrittura, il pensiero e tutto, così in qualche modo stiamo dando voce a tutti quanti e ovviamente normale conseguenza è lo sviluppo del relativismo. Il problema è quanta serietà dobbiamo dare a ogni teoria che emerge. In questo contesto la cosa più assurda è che il discorso andrebbe affrontato più da una tematica, più da una prospettiva scientifica, no? Un pochino più orientata alle questioni dell'analisi dei dati, effettivamente che cosa emerge dalla scienza, e si è dato voce invece a un po', diciamo, persone, diciamo, io, cioè, il designer etico non lo chiamerei proprio programmatore, cioè lì Tristan Harris viene chiamato designer etico, cioè io non diciamo, un po' sembra un po' di queste cose inventate là, di questi titoli che si danno alla Silicon Valley per definire qualcosa di abbastanza. Sì, Arcangelo, che si chiama, c'hanno dei nomi assurdi in effetti, è vero, sì. Super apostolo di non so che, della super cazzola, è chiaro. Beh, hanno creato una religione parallela, questo è poco ma sicuro, e l'algoritmo in sé ha qualcosa della potenza creatrice dei numeri, delle cabale, di tutti gli esoterismi, le parareligioni possibili e immaginabili. Ma concretamente, è indubbio che da questo mondo venga un profitto che l'umanità non si è mai sognata, ma nemmeno ai tempi in cui si mandavano gli schiavi a tirar fuori i diamanti da sottoterra, che non costavano nulla. Questo in qualche maniera sembra un sistema che tende per quanto possibile a incrementare se stesso, perché chi è che rinuncia a una condizione di privilegio? Certo, questo è chiaro, nel senso, cioè, per quello dicevo, il discorso del business model è quello che è cambiato. I giornalisti sono tanto arrabbiati, c'è la storia delle fake news, perché tanti giornalisti sono arrabbiati perché ormai l'attenzione che loro avevano come prioritaria, assegnata come diritto in qualche modo, si ritrovano in qualche modo con un competitor, vorrebbero essere Facebook, insomma, cioè penso che il desiderio più profondo di chi combatte Facebook è che vorrebbe essere Facebook. Ma Instagram. Chi è che non vorrebbe farsi 70 miliardi di dollari di fatturato? Appunto. Ecco, ma dietro questo cosa c'è però? Ve lo state domandando? C'è una promessa neanche del tutto verificata, che ci sia la capacità, come si diceva prima, che l'algoritmo modella esattamente e prevede il comportamento umano, e scientificamente questa cosa è ancora tutta da verificare. Vi posso garantire che i modelli attuali che stanno in corso d'opera, che fanno le previsioni sul comportamento umano, sono tutto tranne che perfetti, cioè riescono a fare delle inferenze buone su tanti dati e tutto, ma si attribuisce questo potere taumaturgico all'algoritmo e all'intelligenza artificiale, e chi lo fa spesso non sa di che cosa sta parlando. Un po' questo è si gioca un po' sull'ignoranza dell'argomento. Cioè, tutto si gioca sulla promessa del fatto che si sarà in grado di manipolare attraverso i social, quando non si è ancora capito se sta manipolazione è vera o falsa. Esempio proprio semplice: Trump è stato eletto per colpa delle fake news e dei troll russi che hanno manipolato l'elettore. Ma mica tanto, nel senso, alla fine ha più sviluppo di Clinton che Trump, e se viene rieletto siamo sicuri che è colpa dei social media o perché avete candidato Biden? Questo è un po' il discorso. Si cerca un capo espiatorio perché c'è questa forza onnisciente, onnipotente, che sono i social media, che controllano l'umanità, che è esattamente quello che sta dietro ogni teoria del complotto. Assolvono il ruolo che in passato hanno assolto le streghe, gli stregoni, gli ebrei, le etnie, tutti quelli a cui si dava la colpa di qualcosa di epico che succedeva, e attraverso l'aizzamento allo sterminio o comunque alla presa di distanza si manteneva comunque uno statu quo. Oggi può accadere lo stesso, e non voglio sembrare in questa fase l'assolutore del grande sistema che ci schiavizza, tanto l'avranno già detto quattro ciocchi, già stanno scrivendo, siete pagati da Google, da Facebook e da chi siete voi. È che vogliamo trovare una via reale e concreta. Lei ci dice non esiste ancora l'algoritmo di Dio che prevede anche il nostro comportamento futuro, però qual è il punto massimo in cui si è arrivati oggi? Perché è indubbio che comunque molti dei nostri comportamenti sono stimolati. Io, come penso tante altre persone, la mattina quando si alza si guarda le notifiche, e sulle notifiche in parte, non dico che organizza la sua giornata professionale, ma è in qualche maniera corroborato in quello che sarà la sua giornata, da chi ha visto, chi ti ha scritto per primo. Io c'è sempre un'amica mia che è il primo messaggio che mi arriva, è sempre una collega mia giornalista. Ogni mattina vedo il suo messaggio. Non credo che in assoluto sia quello il messaggio più importante di tutta la rete, ma per certi meccanismi evidentemente quella è la persona che per me è un riferimento. Ecco, non arriveremo ancora a questo punto, ma in una parola, quattro ciocchi, qual è il punto massimo che si arriva oggi? il conto massimo a cui si arriva oggi è capire quali sono gli argomenti che potrebbero essere di mio interesse per la discussione, per catturare la mia attenzione. Quindi c'è del vero nel processo, c'è del vero, c'è anche un effetto di secondo ordine, nel senso tutto questo dinamismo, questa esposizione continua porta a trovare informazioni che preferiscono la nostra visione del mondo, formiamo gruppi dove la pensiamo più o meno allo stesso modo, rinforziamo il nostro modo di pensare, ignoriamo le azioni a contrasto, siamo più segregati rispetto a prima. Questo è un grande, ecco, ci salutiamo perché la sigla dice che abbiamo finito, cerchiamo se possibile di andare a vedere anche altrove, troviamo persone che non la pensano come noi, questa è la cosa migliore che viene da questo film. Alla prossima. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.